Allora, a breve, ci faremo una chiacchierata con una compagna riguardo gli aggiornamenti sull'operazione Scintilla e più nello specifico sugli aggiornamenti processuali che ci sono, dato che questa operazione che nel 2019 ha portato allo sgombero dell'asilo occupato e ha portato all'arresto di svariati compagni e compagne con l'accusa di 270 bis, ovvero di associazione a delinquere finalizzata all'eversione di Stato, sta andando avanti questo processo e quindi ora proviamo a farci due chiacchiere con una compagna. Ciao, ci sei? Ci senti? Ok, Ciao, ci sono. ciao, Un benvenuta a saluto a tutte e Malaradio. tutti. Ok, e niente, allora ti volevamo chiedere due aggiornamenti sul processo e poi se hai voglia prima insomma di dare due aggiornamenti di fare anche se l'avrai fatto mille volte. Però una panoramica un po' generale, su quella che è stata l'operazione Sì, Scintilla. allora, vabbè, questo processo sembra che non debba mai iniziare, diciamo, quindi gli aggiornamenti vanno sempre piuttosto a rilento. Abbiamo avuto le udienze preliminari a inizio estate, intorno a giugno, e da lì poi si è rinviato, diciamo, facendo sostanzialmente un rinvio a giudizio per tutti i capi di imputazione e per tutti gli imputati, così come era, diciamo, il pacchetto presentato dalla procura alla chiusura indagini. Poi diciamo, dopo le udienze del preliminari si è andati a iniziare la fase del processo vero e proprio, fase che poi effettivamente ancora non è iniziata. Ci sono state tutta una serie di udienze tecniche e anche numerosi rinvii rispetto alle questioni tecniche da sbrigare, insomma, quando inizia un po' un processo, per cui diciamo che la fase dibattimentale, che in verità doveva iniziare oggi, ancora non è partita. C'è stato questo rinvio al 28, e in quella sede dovrebbe iniziare, diciamo, proprio l'istruttoria, e già con l'ascolto da parte della Corte d'Assise di alcuni testimoni da parte di Procura. Ci sarà sicuramente un funzionario della Digos che dovrà parlare rispetto a, sappiamo bene, i castelli che si fanno rispetto alle geografie del movimento anarchico. Nello specifico, immagino si tratti di quello torinese, quindi verrà un po' a inquadrare, diciamo, a loro detta, il fenomeno degli anarchici e delle lotte che sono state portate intorno all'asilo. E poi si susseguiranno tutta una serie di altri test di testimonianze da parte di periti, sempre da parte di procura, per quanto riguarda tutta una serie di plichi che sono stati fermati a degli uffici di smistamento poste negli anni, direi, tra il 2012 e il 2014 più o meno. E così dovrebbe, diciamo, iniziare la fase di dibattimento di questo processo che arriva ormai a 3 anni da quando poi effettivamente sono state eseguite sia le misure di custodia in carcere e sia appunto poi lo sgombero dell'asilo, come tu ricordavi. Farei una precisazione rispetto all'introduzione che hai fatto. L'associazione di cui ci accusano è un'associazione sovversiva, non è finalizzata al terrorismo, quindi è un 270, diciamo, semplice. E quindi niente, insomma, vabbè, come sappiamo, comunque il reato associativo prevede delle condanne anche piuttosto alte. Non sappiamo bene perché non ci sia stata non abbiano deciso di non inserire la finalità di eversione. Penso che questo abbia fatto sì che anche gli altri capi di imputazione, diciamo specifici, che alcuni di noi hanno, non siano stati categorizzati sotto l'articolo 280 bis, ma invece sono rimasti sotto la legge armi, cioè trasporto, detenzione, fabbricazione di materiale esplodente. E questi sono più o meno, diciamo, gli aggiornamenti all'oggi. Mi sentite? Sì, voglio, voglio, voglio. Ah, No, no, no, ti ok, stavo perfetto. facendo Allora parlare, non continuo. volevo interromperti. No, Sì, no, no, ok, allora continua, continuo. continua. Fino a quando non Per ti quanto stufi, riguarda, continua. ok, va bene. Per quanto riguarda l'inchiesta in sé, appunto, come tu giustamente dicevi, è avvenuta appunto 3 anni fa e ha portato in carcere immediatamente 6 persone, mentre una settima compagna non è stata trovata, è rimasta latitante per oltre un anno e poi è stata arrestata e ha fatto anche lei, diciamo, l'iter che alcuni di noi avevano già seguito. Le misure cautelari sono, come potete immaginare, ampiamente scadute, nel senso che poi anche la detenzione cautelare per un associativo, in mancanza di un inizio del processo, dopo un anno comunque scadono. Per cui appunto per la nostra compagna che è stata latitante, in verità per lei appunto è stato un po' più lungo, perché le date del processo in verità erano state fissate, quindi aveva dei tempi di scadenza diversi. Comunque anche lei diciamo che è riuscita a uscire dai domiciliari questo settembre, e poi ha avuto le firme ancora qualche mese, adesso è finalmente libera dopo tanto tempo, insomma, di prendersi un po' in mano la sua vita. L'inchiesta è un'inchiesta che andava sostanzialmente a colpire la lotta contro il CPR in generale, nello specifico contro il CPR di Torino. È un'inchiesta molto lunga, che parte dal 2015, e al momento dell'apertura a indagini non c'era, diciamo, nessun imputato. Sappiamo che questo è anche uno stratagemma che utilizzano per poter procrastinare, per poter allungare diciamo, i tempi per fare inchiesta. Piano piano sono stati poi inseriti nel registro degli indagati i nomi di alcuni compagni e alcune compagne che lottavano e si organizzavano a Torino e intorno all'asilo. E, diciamo che appunto l'inchiesta ha tutta una serie di reati scopo che vengono ascritti all'associazione, diciamo, al programma dell'associazione, e di cui in verità sono molti, sono diversi reati. Si tratta di tanti plichi inviati a vari indirizzi, in qualche modo coinvolti nella gestione dei CPR o nell'espulsione di immigrati. Ci sono dei fatti invece legati ai depostamat, con delle taniche di benzina lasciate davanti a dei postamat. Alcuni di questi capi di imputazione sono imputati a qualcuno di noi, ma in verità la maggior parte restano imputati all'associazione tutta e quindi sostanzialmente ignoti. È quello che, diciamo, si può dire, che non hanno niente per cui attaccarsi per nessuno degli imputati e delle imputate coinvolte. E oltre a ciò, quello che è stato aggiunto secondo me di interessante rispetto, diciamo, alle prime carte, quelle già dell'arresto, e quindi quello che si è aggiunto con la chiusura di indagini, è il reato che ha una mia compagna, che è sostanzialmente di incendio in concorso con degli immigrati che sono stati condannati per aver fatto una rivolta dentro al CPR. Per cui, come dire, a creare un vero e proprio collegamento tra la rivolta dentro e la presenza dei compagni, delle compagne, dei solidali fuori dalle mura del CPR. E altra, diciamo, cosa degna di nota è il ruolo che riveste il reato dell'istigazione a delinquere all'interno dell'inchiesta. Tanti di noi hanno anche questo reato di istigazione a delinquere, questo perché appunto ci sono tutta una serie di testi che vengono scritti a fianco della lotta o durante la lotta contro il CPR, in solidarietà ai reclusi che si ribellano dentro e che vengono individuati dalla controparte come, diciamo, materiale che poteva essere utilizzato per istigare delle persone, nello specifico i reclusi, ma non solo, a ribellarsi. Ma diciamo che poi in verità quello che più viene sotto la lente di ingrandimento degli investigatori è questo opuscolo che si chiama I cieli bruciano, che è un opuscolo che conteneva diciamo un glossario, no, non un glossario, scusate, un indirizzario di nomi, un insieme di nomi e di indirizzi di anche qui ditte, agenzie o quant'altro si occupasse di gestione, di espulsione, di gestione dei CPR, di espulsione di immigrati. In questo sicuramente un ruolo importante l'ha avuto negli anni passati la compagnia Mistral Air, che è la compagnia che delle Poste Italiane che ha effettuato le espulsioni, che è effettuato, non so se effettua ancora le espulsioni degli immigrati dal territorio italiano, quelli senza permesso di soggiorno, per cui appunto anche su questo ai tempi si erano spese tante parole, si erano fatte anche tante iniziative intorno alle Poste Torinesi per insomma segnalare che Poste Italiane collaborava nell'espulsione di migranti. E, questo più o meno diciamo l'impianto accusatorio. Da dire rispetto alle questioni tribunalizie c'è che sicuramente già quando ci furono gli arresti, il capo di imputazione dell'associazione sovversiva era caduto sia nell'udienza di riesame sia nell'udienza di Cassazione di riesame, per cui ci sono già due sentenze che sostanzialmente, non so, scusa, sentenze di riesame sempre, per essere chiari, che sostengono che non esiste l'associazione così come è stata formulata. Chiaramente queste sentenze precedono la chiusura indagini, per cui alla chiusura indagini l'impianto della procura è un po' cambiato, un po' per rimescolare le carte, per non proporre, diciamo, una cosa che era già stata, messa da parte o comunque non considerata dei tribunali del riesame. Hanno aggiunto per questo degli imputati, chiaramente siamo diventati 18 a fronte dei 7-8 che eravamo all'inizio, e per appunto riuscire a, diciamo, far reggere questo castello accusatorio laddove era già stato smontato in altra sede. Questo è più o meno il racconto di quello che è quell'inchiesta. Magari dico due cose sulla lotta. Io adesso non abito più a Torino, però insomma, ho partecipato in quegli anni sicuramente alla lotta contro i centri di espulsione, così come tanti altri compagni e compagne nella città, ma anche poi sul territorio nazionale. E quello che è appunto si è fatto a Torino è stato quello di portare solidarietà fuori dalle mura ogni qualvolta ce ne fosse necessità, sicuramente nei momenti di rivolta essere presenti per dare sostegno, provare a fornire un minimo di informazioni utili anche per la propria difesa e anche per avere degli agganci interni, avere degli agganci da dentro, scusate, per poter, non so, avere degli avvocati che possano dare dei consigli utili invece degli avvocati che solitamente poi sono all'interno di queste strutture, e così come creare dei veri e propri legami che potessero poi avere anche la forza della solidarietà nel sostegno a chi stava dentro. E oltre al sostegno ai reclusi, diciamo che quindi immediatamente fuori dalle mura e anche attraverso l'utilizzo di un telefono cellulare, adesso poi la questione sui telefoni dentro i CPR è in parte cambiata, non in tutti i centri ci sono, comunque al tempo tutti i reclusi avevano la possibilità di avere il proprio telefono, gli spaccavano la telecamera, però insomma potevano avere il loro telefono, per cui diciamo che con un telefono fuori, facendo girare questo numero di telefono all'interno delle mura, si riuscivano poi ad avere dei contatti diretti con queste persone e capire, diciamo, immediatamente quello che stava succedendo, quali erano i problemi più gravosi, in modo tale non solo da fare megafono sulla città rispetto a quello che succedeva là dentro, dei soprusi, delle violenze, ma anche proprio per poi magari provare ad avere una risposta pratica anche sul fuori, che potesse dare una mano a chi dentro stava lottando. E negli anni sono state fatte diverse campagne di lotta su questo, una che è stata particolarmente presa di mira dall'inchiesta di Scintilla è la campagna contro la ristrutturazione del CPR, perché poi questa è una storia di la lotta contro il CPR è una lotta che si anima per lo più dalle persone che dentro il CPR ci stanno e che, come ben sappiamo, non sono mai stati domi da quando questi centri esistono, per cui i centri sono sempre stati luogo di proteste, di rivolte anche molto, molto dure, e ci sono stati degli anni, diciamo, gloriosi in cui dentro, cioè, i posti dentro disponibili su tutto il territorio nazionale erano molto pochi, proprio perché i CIE bruciavano. Al tempo appunto erano ancora i CIE, però bruciavano per le rivolte che i detenuti portavano avanti. Per cui appunto in una di queste occasioni in cui il CIE di Torino probabilmente aveva una ventina di posti o giù di lì, a fronte degli oltre 200 che mi sembra potrebbe ospitare, o rinchiudere, più corretto. In quell'occasione i compagni fuori si sono organizzati e hanno lanciato una campagna un po' più allargata per, diciamo, impedire o rallentare le ristrutturazioni all'interno dei CPR. Quindi una campagna che si è concentrata sulle ditte che avevano preso gli appalti per la ristrutturazione e si facevano azioni di disturbo, azioni di controinformazione rispetto a queste ditte, fuori da queste ditte, per provare, insomma, a mettere un minimo anche noi da fuori, il bastone fra le ruote, chi voleva sistemare una prigione per poterne allargare il numero di reclusi. Ecco, oltre a queste sono state fatte anche altre campagne. C'è stata, come dicevo prima, una campagna contro Mistral Air, la compagnia aerea di Poste Italiane, tutti i momenti di lotta che sono poi confluiti nell'indagine di Scintilla. Ecco, e quello che poi non so se hai qualcosa da chiedere, io sicuramente vorrei chiudere con questo pensiero che è, nonostante appunto poi con questa operazione pensassero di reprimere non solamente nello specifico una manciata di compagni che poi in città si organizzavano e davano fastidio, ma anche una lotta che insomma è da anni, praticamente da quando sono stati istituiti i CPT, non ha mai smesso di esserci, di avanzare, di avere sui momenti anche rabbiosi. E appunto, nonostante l'inchiesta di Scintilla, neanche a Torino la lotta contro il CPR si è fermata. Per cui altri compagni e compagne hanno raccolto l'eredità, altre sensibilità si sono messi sul tema, e quindi diciamo che appunto ad oggi siamo ben lontani dall'aver cancellato una lotta dalla città. La prigione comunque per i migrati è ancora lì, e io mi auguro, spero che insomma finché esisterà questa prigione ci sarà gente dentro, ma e anche gente fuori disposta insomma un po' a battersi per vederla distrutta. Per cui appunto questa è una nota positiva per dire che appunto finché ci saranno queste prigioni ci saranno persone che lotteranno contro. No, vabbè, guarda, hai detto praticamente tutto, ti volevo solo chiedere quando è la prossima udienza? Speriamo La prossima udienza sarà il 28 di marzo. che la rinviano. Speriamo Speriamo che la che rinviino, la... A certo. posto. Il calendario comunque che avevano immaginato risulterà piuttosto fitto da aprile, con un'udienza a settimana, e per ora hanno dato ipotizzabile la sentenza per luglio. Ecco, questo. Perfetto, prima dell'estate, proprio un Esatto. regalo per l'estate da parte della Procura torinese. Andiamo al Vedremo, mare, vedremo. speriamo di no, speriamo di no. Va bene, dai, guarda, grazie, ti ringraziamo per la disponibilità. Noi ora mettiamo un pezzo di un gruppo torinese, The Luquins, e Ottimo, niente, ce ottimo. l'ascoltiamo Diu volentieri. fama mare plora, io non so la pronuncia, raga, perché cioè, proprio già non so parlare Perché in non sei italiano, torinese? manco in inglese, figurati il piemontese. Va bene, dai. Grazie Grazie mille per lo mille. spazio. Un Grazie a te. saluto Dai, a a presto. tutti. Ciao. Ciao ciao ciao ciao. E quindi, come detto, ci sentiamo i Luquinze.